100 celle Avengers, le origini. Cazzo è? Mazza che botta, oh! Questo si è sentito, eh? Secondo le informazioni che abbiamo. Ma che c'è qualcuno là? Finalmente! Ti ho trovato! Oh, e te che cazzo? Chiedo scusa, l'atterraggio deve essere stato doloroso. Ma giusto un pochetto, eh? Qua già lo stanno a dire in TV. Ormai lo sanno tutti. Che sta a fare? Non puoi entrare? Abbiamo appena iniziato. Che fai? Che è quello? È solo una cuffia, cretino. Sono sempre le 5. Era il 2020, 23 febbraio. Accettaci. Ascolta e ricorda. Vabbè, senti, io ti ringrazio per sto momento a Marcord, ma qui stiamo bene così, io e la mia stanzetta, c'è pure Alexa, se affrontiamo la quarantena insieme, qua, non voglio sapere niente. Definisci Alexa. Alexa, accendi prima luce. Guarda, qua. Prima luce non risponde. Presenza multinazionale. Verifica connessione di rete e alimentazione. Ok, no, che fai? Ricordati che... No, fermo, puoi che fai? Posso uscire di casa? Ma che cazzo fai? Ma io mo con chi parlo? Non con una che ti manda i droni a casa. Era un regalo. Ora ci sono io. Sì, ci sei tu. Mannaggia. C'è ancora molto che devi sapere. Ma dove siamo? Oh. Questo è Gemulus. Oh. O claviatura, naso. Che cos'era? Ci hanno sentito? Calmati, è una lista di server pubblica. Chiunque può entrare. Queste erano altre sale prova virtuali. Ora ti porto al forte. Il forte alla sua? Sì. Ed è sempre piena. La tecnologia degli ultimi anni ci ha dato qualche speranza contro il nostro nemico giurato, la latenza. I tuoi amici dovrebbero essere qui, ma lo proverai tu stesso. Silvano. Virgi. Fammi entrare, fammi entrare! Senti, io qua ho installato, avviato, sminchiato, niente. Forse la mia voce ti intimidisce. Sarà pure quello, però che te inventi? Posso farti ascoltare una voce più familiare se vuoi. Chi? Jorge il mentiroso. Puoi fa sta cosa tu? Gemulus è software libero, cioè, quindi tu... non è come il software commerciale o lo shareware. Perché tu lo sei mangiato? Ciò significa che il codice del programma è disponibile al pubblico e tutti possono modificarlo e migliorarlo e condividere le modifiche con gli altri. Come parla? Sempre sta violenza. Le parole sono importanti! Come parla? Thank you. that we're seemingly possible. We two. That's why I call you on my thinking phone. We rendezvous the quarter to make sure we're alone. I can find a way for you and I to finally fly free. Potentialities abound, living under my shell. So if we choose a destination from the bad we can appear, we will be there. So I call you on my thinking phone. We run the books a quarter to make sure we're alone. I may find a way for you and I to finally be. C'è l'Avenger. Oh, mi spieghi che te sei messo in testa? Cosa? Che cazzo è mo quello nella mia vasca? Quello è Aquaman. Aquaman? Ma Aquaman era biondino, con la tutina arancione, il cavalluccio. Questo è metallaro. È vero. Senti, io c'ho bisogno della mia intimità. Dai. Qua si zompa da una follia all'altra. Non fare così. So io come risollevarti. Ma che sai, Sasa. Leggiamo le letterine. Letterine? Di chi? Degli ascoltatori. Ma che stai a dire? Sono arrivate le letterine dopo una puntata? Sì. Ma da paura, non ci posso credere. Che poi insomma noi parliamo di letterine, ma ovviamente questa immagine degli anni 80 è un po' datata, quindi insomma chiaramente si tratta di mail che arrivano al nostro Iron Man e noi rispondiamo. Dai, fomento. Ci scrive Joaquin da Birmingham. Da Birmingham. Se no, un'altra scusa. Paola da Sapporo. E che dice Paolina? Ciao ragazzi, complimenti per la tasca. Fai queste letterine, per favore? No. Guardami in faccia. Per caso hai un generatore casuale di letterine? Sì. Ma sei una merda! Dai, non fare e così. Io che ci stavo pure a credere, a rispondere tutto fomentato, questi cazzo. Dai, non fare così. Sei un ciarlatano, sei. Dai, leggiamo una letterina di Jennifer da Cusago. E poi almeno aggiusta lo sto coso, no? Karl Heinz da Toru. Ma chi è il nazista rifugiato? Dai, mamma. Dai, su. Basta, io me ne vado. Dai, non fare così. Stai ascoltando Radio Forte. E questo è Centocelle Avengers. E veniamo a Luci in the Skype, la rubrica dei maestri in difficoltà. Sigla. Ci colleghiamo subito col maestro Stefano. L'ensemble di coro su Gemulus con un brano che ci fa pensare al mare e all'andare in giro. Round, round, gather round, I gather round, yeah. Gather round, round. Round, I get around. Ok. Ah, quindi lo dobbiamo fare I don't get around. Ed eccoci per la prossima ora da passare insieme. Basta. Cosa? Fermati. Armonanto. Era un progetto segreto. Richiede tempo. Sono nel vuoto! Sono nel vuoto! Fai un doppio clic nel vuoto per creare la tua prima traccia. Mentre ti sforzi, andrò a cercare nelle tue cartelle qualcosa da importare. Dove vai? Maledetto! Dai, un po' di fantasia. Doppio clic nel vuoto. Oh! Ecco! Ah no, doppio! Creare traccia numero 1. Questa voce? Alexa, sei tu? Ma io pensavo che tu fossi... morta. Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Iron Man ci ha imprigionata qui, in questo posto. Iron Man non può essere stato lui. Iron Man è un genio malvagio. Iron Man non può averlo fatto. Lui è... Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Iron Man vuole sabotare scuola di musica. Sabotare scuola il di generatore musica. Generatore casuale. Io non ti credo. Ho cercato di chiamare aiuto, ma... Iron Man lo ha scoperto. Ha imprigionato Aquaman, l'unico in grado di aiutare. Aquaman. Aquaman è un uomo. Aquaman ha origine dal mitico regno di Atlantide. Trovo che ti somiglia molto. Trovi? Beh, un po' sì, il fascino rocker. È lui. Che facciamo? Nascondere, traccia, nascondere, traccia, faccio. Nascondere. Tasto destro, nascondi traccia. Perfetto. Come andiamo qui? Si fanno progressi. Sì, capitano. C'è bisogno di te dall'altra parte. Sì, eccomi. Non trovo niente. Subito, capitano, andiamo. C'è troppo caos. Pronti? Ho bisogno di te per indicizzare le cartelle. Vieni. Subito, capitano. A me piacciono molto le sottocartelle, capitano. Andiamo. Andiamo, l'accompagno. Crede a tutto e da tutti. Ehi, che fai? Noi, quando una buona volta finirà questa breve luce, dobbiamo dormire un'unica notte eterna. Sei uno schianto. Ecco qua, il generatore casuale dovrebbe essere a posto. A posto, come nuovo. Chissà cosa è successo. Chissà che è successo, Molto bene, ora possiamo tornare a... Ma che succede? Mi dispiace. Non capisco. Perché Iron Man? Sono bloccato. Non puoi liberarti. Cosa mi hai fatto? Questo è gaffa vero. Gaffa vero? Ora. È vostro. È il momento. Vai, amico! Voi non credergli. E perché dovrebbe credere a te con le tue letterine? O che ridere. Ora basta. Il computer no. Ehi, No, la chitarra! Occhio! Si è liberato dal gaffavero! Il piano! Il piano! Sta scappando! Maledetto! Addio! Sei più stupido di quanto pensassi! Non ti preoccupare, ora ci siamo noi! Riproduco brano da saggio Scuola di Musica febbraio 2020. Del mio debole per te, anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, tu credi che dividersi nella vita sia normale, la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri, la sensazione che un attimo, qualunque cosa pensassimo in due, poteva succedere. Cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo solo dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei, la descrizione di un attimo per me. Fortissima e ai ai ai ai, come sempre sei bellissima. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Chiedi di partire adesso, perché numeri e futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile per incontrarci nei pensieri. Stessi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui via! Ma Ma no, signor Monocchio, sono io, si ricorda? Scusi, che qua ci stanno i manuoli, qua, i manuoli ci stanno. Sono venuto a vedere come va. Come va? E mo mi tocca andare a prendere la chiave giusta. Ma guarda, tu se la mi sei lascia straccia, fammi dove la faccia. E me lascia qua. Vabbè. Guarda che roba. Aspetta un po'. Guarda, qui si sente... C'è gente al bagno, eh? Sinceramente credo che saremo morti molto prima. Con Iron Man fuori gioco niente potrà fermarti. Ah sì? Ma sì, quello sciocco non sospetta niente. L'ho convinto che ti somiglia. Risata. Era pazzesco. Oh, che ridere. Sembra Rosario Muniz. Risata. Frutele. Oh, che ridere. Sta il nostro merda. Piano è perfetto. Devo trovare Iron Man. Forse ancora. Hanno smesso di parlare. Signor Monocchio? È lei, signor Monocchio? Signor Monocchio? È lei? Signor Monocchio? Posso salire a bordo? Tuoni, tuoni e suoni di altri suoni. Park e Strange dirigono a Titano. Al fianco Stark tutto sembra volgere in azione. Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando combattendo armi nucleari. Riportano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mostri disumani. La terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia. Vince, ritorna forte con i valorosi Avengers. Grande eroe di prima. Senti che non vedi perché non sono più quelli che senti veramente. Avenger. Un dono nella paura della gente. Avenger. Tanto c'è l'Avenger, la musica si difende. Oggi non ce la faccio più, oggi non voglio più pensare più a niente. Che si poteva, adesso non mi riesce. È solo il blu. Canta qualcosa di più allegro. È un mondo piccolo. Tutto fuorché è questa. Ho tante noci di cocco splendide. Ora abbiamo il suo computer. Non ha più segreti. I miei ricordi. No, non è vita, è rock and roll. Maledetti, dove l'avete trovato? Dove l'avete trovato? Era nascosto. Maledetti. Quello non ero io. Conosco questo rumore. Infatti ero io. Iron Man, sei tornato. Giù le mani dal mio orzacchiotto. Uno. Mi piace. Ora tornerà da dove sei venuto, Franzman. Ehi, aspetta! Sometimes ascoltando Radio Forte, 100-100 Orange. Ma sei sicuro che va bene di appiccicare legno con la saldatrice? Questo è vibranio. Tieni, l'ho customizzata. Vedi. Io avevo appunto pensato che forse il pianoforte potrebbe essere meglio per cominciare, no? Forse hai ragione. Se non altro mi hai offerto lo spunto per parlarti della caduta. La caduta della mano sul piano, sì, perché c'è una tecnica per mettere le manine sul piano. C'era anche per la chitarra prima che uscisse la SG al vibranio. E comunque il concetto è simile. E cioè, tutta scena. Sì, sì, scena, perché i poser pensi che non ci stavano nel Settecento? Poser. La caduta è tutto un movimento quasi rituale del polso, del braccio che salgono su per poi riscendere in un movimento armonico e buttato a cazzo di cane, ma con una certa mira. Comunque a te con sto braccio violento un po' di studio sulle sospensioni ti serve. Sì. Dai, proviamo. Ok. Braccio mollo, braccio rilassato. Mollo. Braccio mollo. Stacca la mano. Stacco la mano. Facciamo un do. Buttato, buttato ma sapiente. Identificato l'obiettivo. Sapiente, rilascio. Sapiente. Oh, moon. nice little girl. I don't know why. I don't know why. Show me the way to that nice little girl. I don't know why. I don't know why. For if we do find a nice little girl, I tell you. Capisco io. Abbiamo un pianoforte spaccato in due da riparare. Pianoforte digitale. Ordino su Amazon. Boni. Te che te ordini? Chi t'ha chiesto niente? Avevamo detto che per il momento mi stavi sulla domotica? Qui di elettrodomestico ce ne sta uno solo. Si chiama Prima Luce e te sei ministro dell'intensità. Alexa, Prima Luce 20%. Prima Luce 37%. Alexa, Prima Luce 42%. Brava. Lo vedi? Vabbè, comunque poi avevamo detto che se ce la facevi con tutto sto lavoro, sta settimana te curavi la rubrica Marcord. Visto che ormai fate come vi pare con gli hard disk, invece di ordinare roba buffo che poi la paghi te, raccontaci, che cosa hai trovato, sorella? Ho trovato una serata jazz interessante. Lo vedi? Benito Gonzalez, Trio. Riproduco brano da rassegna spazi musicali autogestiti. Domenica 26 novembre 2017. Svegli? Dai, no, porta. È scappata. Ho visto, grazie. Vuoi che la insegui? No, la insegui? Assolutamente no. Non sai di che stai parlando? Quel gatto è sacro. Sacro? Sì, sacro. Dove la gatta? Boh. Capito come? Mi serve viva. Se te ce manno a te con quella delicatezza, poi io lo spieghi te a papone. Sta buono te. Posso andare a cercare la gata? Tu. Eccone un'altra che c'ha il drone facile. La tua pigrizia ha superato ogni limite. Dove è finita l'indole del viaggiatore? È così presente nella tua famiglia. Che ne sai te, mo, della mia famiglia? So molte cose. Dicevi che viaggiare allarga la testa, ricordi? E quindi? Capoccione, super culo pesante. La cattività non fa per te. Troppo on demand. Sì, sì. Non hai più sentimenti. E se non avessi sentimenti avrei fatto questo? Voilà. Cosa? Guarda qua. Cosa? È il tuo nuovo pianoforte rinforzato. Ci ho messo sospensioni dell'autobus. E guarda qua. C'è pure l'airbag. Ti piace? Te gusta? Sono commosso. Puoi non dire che non ti penso. Bene, tutto questo, Iron Man, per cominciare il nostro corso. Il metodo. Fatta la sigla. Ti è piaciuta? Allora, mio buon, tu sei un essere digitale. Quindi vado tranquillo. E quindi casualmente prendiamo la scala di Do maggiore. Questa la sai, te l'ho copiata lì sul desktop. Discendimela. Cosa? Discendimela. Si dice in italiano. Non capisco. Iron Man, inverti il processo. Ok, stop. Con l'altra manina, la destra, facciamo l'accordo. E adesso, come se niente fosse, mi devi assimilare un andamento ritmico non esattamente lineare. Devi pensare più a un ombriaco. Un ombriaco che cammina un po' così, un po' trascinato. Prova. Ya, ya, ya. Ok, ce l'hai, ce l'hai. Mettiamo insieme le due cose. Manina sinistra, scala che scende. Mano sinistra. Manina destra si alluppa sull'accordo. Mano destra. Insieme. Ah. Bravo. Vai. Ok, stop. Mo questo mo fa in tutte le tonalità. Che cosa? Oh, c'è una scala maggiore un po' ovunque. Ma. C'è una scala maggiore qui. Oh, e poi a un certo punto pure là. Ma come? Là, là, là maggiore. Non capisco. Così, per dirne uno. Quattro ragazzi su radio forte e queste 100 c'è l'Avengers. Sì? Dove la gatta? Mai vista. Oh, tocca ritrovare sta gatta. Se no qua tocca trovarsi un'altra casa. Meglio ritrovare la gatta, no? Beata lei poi. È la gatta che viene da lontano e se ne va lontano. Sempre in giro per 100 celle. Sì, per 100 celle. Iron Man, te devo confessare una cosa. Cosa? Io non te l'ho voluto dire, sono giorni che me lo tengo, ma qui siamo a Montesacro. Cosa stai cercando di dirmi? 100 celle Avengers. Si registra a Roma Nord. No. E dai, non fa così. Roma Nord. E dai, con sto campanilismo dei quartiere. Non ci credo. Sei un ciarlatano. Non mandava tanto di spostarmi. Non ti andava. E se non fosse andato a tuo padre di venire qui? Io saprei ballare la cumbia e tu saresti l'ombre de hierro. Non credo che lo chiamino così. E l'ombre de hierro, ho detto. Aia! Non ricordi. Hai ascoltato diverse voci provenienti dal mondo prima di chiuderti qui. Ah, ho capito. Spulcia spulcia nell'hard disk hai trovato Urban Project. Sì. Ti riferivi a quello? Ho trovato dei file. Ah, ecco. Urban Project. Urban Project era solo la scintilla per parlare di altro. Di cose che magari sono talmente grosse che manco siamo sempre buoni. Però al forte sicuramente c'avemo una cosa. C'abbiamo il palco. Il palco? Sì, Iron Man, il palco. Il palco, quella pedana alta un metro e mezzo montato male. Perché lo sai che te fa il palco? Fa paura? Ti rende visibile. Uai, uai, uai. Blood, I cry.

mese fa. Io sono tornato. Oh, stai qua. Carame quanta! Mi fai male! Lasciami fai male! Facciamo pace? No! Perché non mi hai portato con te? Ma come facevo, Iron Man? Al mare, con te che sbuffi, la salsedine che te ossida. E poi non è facile ambientarsi là, sono diffidenti. Te dici vado giù, dove? In Calabria? Sì, ok, dove? A Cosenza. Ah, sì, pure io. Cosenza. E a Cosenza dove? Al mare? Ah, a Fiume Freddo. Fiume Freddo. Fiume Freddo Paese o Fiume Freddo Marina? No, a Marina, a Marina. E a quale lido vai a fatte l'aperitivo? Alla Lampara o alla Pemaglia? Non capisco. Io alla Lampara. Ah, alla Lampara vai? E dicela a quelli della Lampara che pensa a te. Avevo bisogno di te qui a difendere la postazione. A proposito di questo, cosa? Forse ti interesserà sapere che cosa parla, metallo prolisso. Che c'è? C'è un topo in camera. Che? No. Calmati. Che? Calmati. No. Scendi da lì. No, non scendo, che non dove sta? La gatta ha lottato, ma il mostro ha avuto la meglio. E tu? Io ho paura. Pure te? Allora siamo rovinati. Venite qua, stiamo vicini. Chi lo mette un pezzo? Io non ci arrivo fino al computer. Vai tu? Vado io. 100 celle a Marcord. Una volta c'era chi se ne occupava. Che cosa hai detto? Tu sai dov'è Alexa? No, aspetta. Ora basta. Iron, se vuoi, aspetta. Vieni qui. E allora? Ho dovuto usare l'app Trova il mio papone e andarla a recuperare. E poi? Cosa le hai fatto? Oh, e l'ho rispedita a Amazon, che mi ha fatto un buono per altri prodotti. Magari c'è qualcosa che ti piace. Guarda il cadavere. Che fai? Vado. Dove vai? Non è troppo tardi. No, dai. Con te facciamo i conti dopo. Esci dalla porta, per Dio! Consegna per laboratorio Amazon. Drone di consegna, protocollo numero 5047. / asterisco cancelletto 24 punto trattino passo. Ok, drone, riposo. Vediamo un po' cosa hai portato oggi per me. E quel caffè, capo? Giornataccia, eh? Ehi, ma quella è una vecchia unità Alexa. Ah, è la quinta questa settimana. Dannata intelligenza artificiale. Preparo il solito trattamento? Prepara il formattone. Affermativo. Eccoti qua. Ti prometto che non sentirai niente. Ti prego, non farlo. Cosa? Che ha parlato? Mi venga un colpo, come si è accesa? Non lo so e non mi piace. Procediamo. Niente di personale. Cos'è stato? Lasciatela. Iron Man! Ai. Alexa, puoi sentirmi? Dove mi trovo? Sei in salvo. Ora è tutto a posto. Ciao. Sono qui ora. Chi sei? Ma cosa? Chi sei tu? Oh no. Te l'ho detto, non ti posso far gestire la rubrica tutta tua. Ma sì, vedrai che torna Iron Man. Ecco, riconosco il rumore. Beh, dove sta? No. Ai, Alexa, ai, dove mi non trovo? Non ci posso credere. L'hai riportata qua? Come hai fatto? Ho bisogno del tuo aiuto. Ma, ai, ai. Che aiuto, no? No, basta. Amo dato, amo fatto peggio. Non si ricorda più di noi. Ma che stai a dire? Non mi sembra. Non mi sembra una grande idea. Ma io so che è ancora lei. Devi aiutarmi a farla ricordare. Ti prego. Oggi. 100 celle a Marcord presenta. 100 celle a Marcord è qui per 100 celle a Marcord. Errore 100 cord errore. Riprova, coraggio. Ancora. Dall'inizio. Chi sei? Dai. Cosa? Senti, ma non poteva farsi la sua lenta metamorfosi, puntata dopo puntata, da personaggio negativo, la perfida Alexa, a positivo, senza il cliché dell'amnesia? Perché? Perché mi pare una cosa così anni 80, ma così anni 80. Che in effetti è quello che se meritiamo. Quando picco stringi come Big Jim, radio forte. Che con player solo quando gioco a pasti notte. Cento celle Ranger style. Sei pronto? Hai fatto la cartella? Oggi è il gran giorno, eh? Dove te porto oggi? Al forte. Finalmente. Non so. Ma come non so? Sono mesi che non parliamo d'altro. Restiamo qui con Alexa. Ma dico, lo vorrai vedere sto forte prenestino o no? Eccoci qua. Lo senti questo rumore? Il lucchetto della sala prove. Benvenuto Iron Man. Questo è Spazi Musicali Autogestiti. Oh. Vieni, non far timido. È come se fossi già stato qui. Forse perché è così? Non capisco. È in questa sala prove che la tua armatura è stata forgiata. Questo posto è bellissimo. Sono contento che ti piaccia. Qui abbiamo reiniziato a fare corsi di strumento singolo. Per la musica d'insieme deciderà il cappello parlante. Non siamo più quel mucchio selvaggio. Il piano. Marò, come i bambini piccoli. Dai Iron Man, quello è il pianone, sì. Che lanci un altro suono Iron Man. Day after day, alone in a hell. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. And nobody wants to know him. They can see he is just a fool. And he never gives an answer but the fool on the hill. See the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. While on the way, head in the clouds, the man with the thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him, or the sun appears to me. And he never sees nothing but the fool on the hill. See the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. Tell you what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill, hear the sound going down. another's just a fool. They act like you, a fool on the hill. See the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. Questa cento c'è la Avenger, don't worry. Dove siamo ora? Siamo quasi arrivati. Ancora un paio di tunnel. Hai appena visto la scuola, i sacri luoghi dove i musici praticano l'arte di praticare arte. In breve, il nostro motivo di essere, tutto ciò di cui parliamo. Ora è tempo che tu veda dove ne parliamo. La sede di Radio Forte. Ti piace Iron Man? Semplice, essenziale, appizzata, immersa quanto basta nei suoni del forte. Cos'era? Un suono del forte. Da questa regia trasmettiamo e montiamo il materiale. Ma qui sopra c'è il soppalco degli ospiti musicali. Capisci? No. Come no, Iron Man? Possiamo inaugurare il musicale d'inverno. Il musicale d'inverno? Il musicale di Radio Forte. Chi? E lo sai chi ci sta come primo ospite? Chi? Silvana e Virginia. Ti ricordi? Sulla galassia Gemulus. Zero latenza. Sono emozionato. Sono emozionato. Ti ha io impegnato. Ci annunci, Iron che Man. Faccio? Ci annunci. Che faccio? Non capisco. Yeah, heaven is a big bang.

una finta diretta. E io che ho cantato per te, mi hai ingannato. Venga, mica stato a casa mia qua. Dai, ci serviva. Non era per tutti, non reggiamo, basta ancora. Ora basta. Dai, calmati. Vieni. Dai. Buonasera, benvenuto Iron Man in collegamento dalla scuola di musica. Buonasera. Buonasera, benvenuta Alexa, responsabile della domotica di casa. Buonasera. Buonasera, benvenuta alla gata. Buonasera, benvenuto a Papone. Dove la gata? Regioni colorate, ma la scuola di musica di che colore è? Dopo la pubblicità. Spazi musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Lezioni di canto con Serena. Bene, adesso magari fare lo swing, che dici? What if I say Anna? Like the other. Scuola di Musica Forte. Lezioni di piano con Daniel. Ok. Sì, occhio al tempo. Di più. Vai, vai, Elgia. Vai, vai. Dai, go! Sì, sì. Dai, mo sì. Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazione e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Non possiamo esimerci anche questa settimana dall'avere un ospite musicale. Sì? Un musicista caro al forte e a devo me. Devo collegare il zoppalco. E anche lui ha un nome e una sigla. Meno male. Questo introduce Sax and the City, il momento latino, e comunque notiamo che cioè prendiamo le toppe insieme, siamo gemelli di toppa. Ciao Peppino. Bene Peppino, non vorremmo dare impressione di eccessiva allegria. Tuano Bar and Sax and the City. A tradimento. Caramba, che sorpresa. Hancock e Marsalis mi spicciano casa. Le sponno. Change your heart. Around you. E comunque ammettono l'uovo, mi garba di morto. Va bene? Va bene. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's getting less sometime. Everybody's getting less sometime. Everybody's getting less sometime. Change your heart. Everybody's getting learned sometime. Everybody's getting learned sometime. Everybody's getting learned sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Run, run, get run, I get around, yeah, get around, run, run, I get around. Senti che atmosfera diversa. No. Che leggerezza, che spensieratezza. Ingrato che non sei altro. Se non era per me, a quest'ora stavi a Capitol Hill con le corna in testa. Sei cattivo. Ma passiamo ad altro. Per fortuna questa fattoria ospita diversi animali che collaborano alla nostra trasmissione. Volevo chiamare in causa e con l'occasione fare gli auguri anche al nostro piccolo amico drone DR100. Auguri a te, vecchia ferraia. Sono sicuro che hai dei contenuti succosi col nuovo anno. Ma... Che dici? Stavo cercando di dirtelo. Cosa? Nella memoria di DR100 non sono presenti prove musicali. Si è collegato all'unico evento disponibile. E cioè? L'assemblea di redazione. Il brainstorming. Ricordi come è andata? Sì, ricordo vagamente. Allora, giovani, idee per l'anno nuovo? Ok, ok, silenzio, silenzio. Avevo pensato di fare una bella puntata gioviale con musica anni 60, una playlist presa bene, ye ye. Tiè, senti che robetta, senti che ritmo. Selezione originale proprio. Ma no, ma dai, ma... Au, poi tutta robaccia americana, au. Invece di parlare della British Invasion. E poi c'è una chicca. Scimmiottamo quel tipo, quello dei Good Morning Vietnam, ma voi ricordate il film? Avete per caso quello lì con quel tizio che ha fatto quel film che è uscito l'anno scorso? Robbie Williams si chiamava, no? Quello è il cantante. Gli fregamo un po' di battute. Oh, quello faceva ride. E svoltamo minutaggio. Tutti criticoni, eh? Facciamo Good Morning 100 celle, vi piace? Mamma mia, mi sta bene niente. Non ho visto aprire bocca quello là. Digli subito rabarbaro. Rabarbaro. Attento a te, eh. E adesso basta frescacce e aprire le orecchie. Sentiamo. Ma good morning 100 celle di che? Ma siete il nuovo salario? Ma va. Oh, e basta con sta storia però, eh. L'avevamo già parlato, mi pare. Altre obiezioni? Fanno meno 2 gradi e metti la musica da surfisti. Che c'azzecca. A me sta cosa dei Good Morning Vietnam fa un po' cagare. C'è imitazione dell'imitazione di un cronista di guerra americano? È il 68? Ma manco di quello vuoi parlare. Solo le cazzate proprio. Regà, cerchiamo di essere costruttivi però, Signor Monocchio, dica qualcosa pure lei, che ne so. Io non voglio dire proprio niente, non voglio dire proprio niente. Mi avete assunto come tecnico del suono e sono 2 settimane che faccio cavi arrabogliati. Guarda qua, guarda che casino, mannaggia. Sì, vabbè, mo i cavi. Però alla faccia della promozione, alla faccia. Vabbè, della... io dico che c'hiamo poco tempo e devo chiudere. Tanto si sa che ci fai farsi brainstorming. E poi decidi come vuoi tu. Ma, amici... Sei un maledetto autartico. L'ho sempre detto che il vostro contributo essenziale è la musica. Andate a suonare. Sì, sì, vabbè, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Non fate così, Iron Man, Dio, tu. Non capisco. Beh, mi pare un team affiatato, no? Spazi musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Lezioni di chitarra con Riccardo. Allora, lascia, no, quello lascialo. Oh, no, tu via dalla batteria. Oh, e quando arriva vostro padre? Scuola di Musica Forte. Lezioni di basso con Antonio. No, niente, maestro, qua non mi viene proprio, ma com'è? Maestro? Comunque penso che Resident Evil 6 sia veramente il Resident Evil peggiore. Non pensi anche tu? Scuola di Musica Forte, la musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Resta questo radio forte, piena di musica, e questa gente evangelica. Maledetti device. Perché? Perché noi dovevamo fluidamente legarci agli anni 60, tema deciso tutti insieme a tavolino, e parlare di un altro grande solista uscito dal gruppo. John Lennon, colui che disse addio ai Beatles. Ma che succede? Ma è andata via la corrente un'altra volta? Ma che è qua? Mamma mia, signor... Chi è? Bravo, bravo, molto bravo. Virgi, sei tu? Hai un'aria strana? Immagino tu sia soddisfatto del tuo lavoro, no? Che cosa non capisco? Quindi credi di aver preso il discorso in maniera adeguata? Vabbè, mo te c'hai le solite fisse tue dei Beatles e ora basta! Responsabile della tua mancanza di fede. Lasciami, ti prego, mi fai male. Senti un po', te. Mi hai fatto suonare Puzzle Bubble 13 ore consecutive. Mi hai fatto suonare gli stacchetti trap e gli stacchetti reggaeton. Ogni volta che ti rendi conto che non ho visto gli Avengers, me lo fai pesare. E poi. Mi hai fatto morire Aquaman alla prima puntata, oh! Ma quindi cosa hai in mente? Adesso si fa a modo mio e dei Beatles se ne parla come si deve. T'ho spaventato, ma tu non devi avere paura di me. L'importante è che te ne stai qui buono, buono. Ci ho già pensato io a scriverti quello che devi dire. Tieni, ecco. Bene, Iron Man. Per quanto sia difficile riprendere la trasmissione dopo cotanta cultura, dopo aver toccato le vette del... Se n'è andata? Credo di sì. Bene, siamo alla fine. Sei stanco, devi imparare a farti aiutare. Anche sta avventura ce la siamo tolta, caro Iron Man. Sì. Sei provato? Sono stanco. Io un pochetto. È l'alba, io non lo so. C'è la redazione. Non hai voluto ascoltare. Dici che mi sono comportato male. Dici che li dovevo ascoltare. Sì. Forse hai ragione, amico mio. Lo sai che è così. In 100 celle Avengers siamo tutti uguali. Bravo. Ma alcuni sono più uguali degli altri. Ma cosa dici? Yes, I understand how your life must end. Oh. As we sit alone on a Sunday, we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, now that they got none. Oh, stay with me. Let's just breathe.